You've got to give a little. Indovina chi viene a cena? Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Bentornati a Indovina chi viene a cena da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a questa trasmissione di Radio 24 che ogni sabato vi porta una storia, di solito con radici altrove, per raccontarvi l'identità, la migrazione e anche un pezzetto di cucina. Tra pochi giorni a Lucca si terrà Lucca Comics, che è l'importante fiera italiana del fumetto e non solo. Noi di fumetti stasera parliamo, o meglio di graphic novel, una forma di reportage a fumetti che si sta sempre più imponendo e sta avendo successo all'estero ma anche in Italia. Oggi parliamo del libro La sposa yemenita di Laura Silvia Battaglia e Paola Cannatella, pubblicato da Becco Giallo, editore nella collana Cronaca Estera. Laura Silvia Battaglia è con noi, benvenuta. Grazie a tutti, buonasera. Allora, ho detto graphic novel, ma prima di parlare di questo, io so che lei, che vive tra Milano e Sana'a in Yemen, ci ha portato un piatto a Radio 24, no? Sì, gli ho portato lo shafut, che è un piatto tipicamente yemenita, lo potete trovare solo lì, che nasce dall'incrocio di rotte migratorie, potremmo dire, ed è un piatto che viene servito come antipasto, ha una base di pane arabo, c'è lo yogurt fermentato, c'è il prezzemolo, c'è anche tanto peperoncino, insomma è un misto molto interessante di caldo freddo come sensazione che poi si trova in bocca, e chi prova lo shafut di solito non lo lascia mai, anzi quando non lo può mangiare ed è lontano dallo Yemen sogna lo shafut, quindi mi sembra un buon piatto da portarvi oggi. Mi sembra un piatto che assomiglia in qualche maniera ad altri piatti assaggiati nel Mediterraneo, o no? Ci sono dei punti di contatto? Ci sono dei punti di contatto, anche se bisogna dire che lo Yemen, per la sua posizione, è anche molto vicino all'influenza dell'India, dei paesi del Corno d'Africa, per cui noi possiamo trovare in quella tradizione assai meno legami con la cucina del Mashrek, quindi della fascia Libano, Palestina, Israele, Giordania e anche Iraq, più legami con le cucine del Golfo da una parte e con le cucine anche dell'area indo-iranica, insomma l'uso dello yogurt fermentato per esempio ne è una prova. In questo libro La sposa yemenita si racconta che cosa esattamente? Lei è una freelance documentarista, una giornalista professionista, viene da Catania, vive, l'abbiamo detto, tra Milano e Sana'a in Yemen e corrisponde, quindi racconta lo Yemen, corrisponde da Sana'a per diversi media italiani e stranieri, quindi insomma fa la giornalista. Come mai un libro di questo tipo? Un libro di questo tipo perché innanzitutto perché lo Yemen è un paese che sta conoscendo una guerra devastante e terribile non viene raccontata a sufficienza, anzi non viene raccontata affatto. E ciò che questo paese sta passando, un po' come insomma accade a un paese parente che è la Siria, è decisamente in contrasto anche con il suo splendido passato, che è fatto di grandi resti archeologici, presenze di civiltà millenarie, architetture splendide e anche con una popolazione che di fatto comunque porta avanti con orgoglio e con bellezza tutta una serie di tipicità. E quindi lo Yemen di fatto è un paese che è sempre stato, in particolare nel suo rapporto con l'Italia, che comunque è il luogo da cui provengo, a metà tra un luogo di bellezza agognato. Ricordo che Pasolini si innamorò dello Yemen, girò dei film e girò anche un documentario che si chiama Le mura di Sana'a. Sana'a è una vera grande città medievale, grande circa quanto Spoleto, è rimasta tutta intera esattamente come era molti secoli fa, caso ormai forse unico al mondo. Non avendo subito mai nessuna contaminazione con nessun mondo diverso, e tantomeno col mondo moderno radicalmente diverso, la sua bellezza ha una forma di perfezione irreale, quasi eccessiva ed esaltante. Benché su un registro infinitamente più rustico e popolare, essa è bella come Venezia, o Urbino, o Praga, o Amsterdam. La classe dirigente yemenita se ne vergogna, perché è povera e sporca. E certo, ha ormai tacitamente deciso la sua distruzione. E poi anche un immaginario invece più recente, che ne fa anche in modo un po' stereotipato il paese di Al-Qaeda, il paese delle spose bambine. Queste cose è vero che ci sono, sono delle spine nel fianco piuttosto grosse, però mi sembrava opportuno, vista anche l'attualità, poter raccontare questo paese in tutta la sua scala di grigi, quindi sia negli aspetti di bellezza sia negli aspetti di dramma assoluto, e poterlo fare in un modo, potremmo dire accattivante, apparentemente leggero, che è quello di utilizzare il fumetto, ci permette, piuttosto che scrivendo un saggio, di andare a raggiungere un pubblico molto ampio, quindi anche un pubblico per esempio di adolescenti o comunque di persone giovani che sono interessate agli esteri assai più di quanto si creda, un pubblico di persone colte allo stesso modo, un pubblico di persone che magari sarebbero meno inclini a leggere un saggio perché hanno meno tempo, perché hanno meno voglia, perché hanno meno interesse, però comunque riescono ad accedere a delle conoscenze che non sono solo di base ma anche abbastanza profonde tramite le storie. Quindi lo storytelling credo che sia in questo momento un'arma vincente per poter raccontare anche cose molto complesse e anche a volte poco piacevoli. Il libro però è anche divertente, racconta, come dicevamo, delle cronache quotidiane, la vita della comunità locale, e inizia con un rito nuziale, no? Sì, inizia con un rito nuziale, perché poi di fatto un altro stereotipo che probabilmente noi che siamo anche più fortunati vivendo in paesi in pace abbiamo è che nei paesi in guerra il dramma sia tale per cui le persone non riescono a vivere nemmeno la loro normalità. Di fatto gli esseri umani sono profondamente resilienti e dunque trovano la possibilità di accontentarsi anche di quegli scampoli di serenità che gli vengono dati da una condizione di difficoltà. Per cui il giovedì, che è un po' come il sabato da noi, il giorno in cui ci si sposa più frequentemente, le persone continuano a sposarsi e i matrimoni sono in realtà appunto dei momenti in cui lo status sociale delle famiglie o dei singoli si vedono con molta chiarezza, sono dei momenti piuttosto importanti e sono anche dei momenti in cui, contrariamente a quanto ci si possa immaginare, ci si diverte tantissimo. E tra l'altro si celebrano separatamente, perché chiaramente è una società molto diversa dalla nostra, dove le donne vivono soprattutto lo spazio privato piuttosto che lo spazio pubblico, insomma donne festeggiano con donne, uomini con uomini, e di fatto si scatenano assai di più che se fossero messi insieme. Ci fermiamo brevemente, torniamo a parlare della sposa yemenita, questo libro, una graphic novel per Becco Giallo Editore, tra pochissimo. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. That's the glory of love. Oggi parliamo del libro La sposa yemenita di Laura Silvia Battaglia e Paola Cannatella, pubblicato da Becco Giallo nella cronaca estera. È una graphic novel che ci racconta uno spaccato dello Yemen che inizia proprio con questo matrimonio, con questo rito nuziale, con la festa che segue. E abbiamo con noi per parlarne l'autrice Laura Silvia Battaglia, mentre Cannatella è colei che ha illustrato il libro, la fumettista. Laura Silvia Battaglia ci raccontava che il rito nuziale in Yemen dura 3 giorni, durante i quali lo sposo e la sposa festeggiano ognuno per conto proprio, uomini con uomini, donne con donne. E Laura viene invitata a una cerimonia riservata alle donne, ricevendo una rosa rossa, segno e profezia che sarà la prossima a sposarsi. Laura, lei ci raccontava di quanto si possono scatenare in queste feste separate gli uomini e le donne, però tutto questo a noi obiettivamente suona come una segregazione delle donne e una separazione fra i due sessi, come non un passo avanti verso l'indipendenza femminile. Beh, certamente è una società dove esiste una più rigida separazione tra uomini e donne nello spazio pubblico e privato, una società particolarmente diversa dalla nostra, dove comunque non si immagina il ruolo della donna, è diverso soprattutto dal ruolo di moglie e madre, anche se le donne che lavorano sono tantissime. Insomma, voglio ricordare tra l'altro che in questa guerra tutte le infermiere, tutte le dottoresse, le chirurghe che operano negli ospedali sono tutte donne, sono persone che non sono anche all'estero, in Egitto, in altri paesi. E di fatto certamente è una società che ha degli elementi di tradizione, soprattutto nelle campagne, ecco, certo non un po' meno nelle città, molto spiccati, per cui una donna che è impossibile che una donna viva da sola, per esempio, perché verrebbe considerata particolarmente strana, è molto difficile insomma che una donna abbia dei ruoli dirigenziali, mentre per esempio questo accade con più facilità nel Golfo piuttosto che in Kuwait, ma perché c'è una certa povertà, insomma, quindi soltanto chi appartiene a famiglie veramente di rilievo può avere anche una vita pubblica, esprimersi in questa vita pubblica, ma mai comunque rinunciare al ruolo primario che è quello di moglie e madre, e in questo c'è sicuramente un'enorme differenza rispetto alla nostra società, su questo non c'è dubbio. Quindi c'è una partecipazione delle donne velate allo spazio pubblico, però diciamo sempre un contesto molto diverso dal nostro. Certamente è un contesto molto tradizionale e su questo chiaramente c'è anche da dire che come in tutti i paesi di quest'area molto è cambiato dagli anni 50 ad oggi, come in Iran, l'Afghanistan, eccetera, se escludiamo comunque il Marocco o la Tunisia e in parte l'Egitto. Questi sono dei paesi che dal nostro punto di vista hanno subito un'involuzione dei costumi, le donne yemenite come le donne iraniane, come le donne afghane negli anni 50 vestivano esattamente come poteva vestire una donna americana negli anni 50, stiamo parlando naturalmente di classi medie e urbane e quindi non persone che vivevano nelle campagne e continuavano a lavorare nelle campagne o che lavoravano col bestiame, e questo segno insomma è passato soprattutto, come sappiamo, dalla presenza scoperta di idrocarburi in forme consistenti in tutti questi paesi e poi dalle successive reazioni agli atteggiamenti colonialisti e neocolonialisti occidentali, e quindi poi tra l'altro i due paesi che hanno più soldi e disponibilità, come l'Iran da una parte e l'Arabia Saudita dall'altra, utilizzano la loro agenda politica per influenzare i paesi vicini, per cui anche il modo di vestire delle donne in Yemen per esempio di oggi non ha nulla a che vedere con le modalità tradizionali, nemmeno con gli abiti tradizionali di una volta che erano molto colorati, rosso, oro, e invece scelgono il niqab e la baia nera. Che... Quindi c'è stata un'involuzione in Yemen, prima le donne usavano costumi femminili e colorati e poi hanno subito un'influenza dell'Arabia Saudita, se capisco bene, e quindi si coprono di più recentemente. Assolutamente, questo è un trend, se possiamo usare questa parola, che è stato molto forte dagli anni 80 in poi in tutta la regione. Poi non dobbiamo dimenticare anche che il sud dello Yemen era una zona, come anche per esempio fu l'area dell'Afghanistan, in cui il rapporto anche con la Russia, l'idea di un paese socialista e anche del comunismo era presente nei paesi arabi, e dunque tutto questo è stato poi spazzato via da epoche successive, e oggi noi assistiamo comunque alla presenza di questi paesi, Iran e Arabia Saudita, entrambi l'uno da una parte e l'altro dall'altra, a imporre la loro agenda politica e culturale ai paesi vicini e a portare anche delle guerre in cui di fatto i cittadini di questi paesi si armano tra di loro, ma poi gli interessi generali sono degli interessi più ampi, sono interessi regionali in cui queste due potenze regionali si scontrano e cercano di avere la meglio l'una sull'altra. Parliamo di spose bambine, perché è chiaro che in Italia siamo abituati ad avere degli stereotipi in mente, fra questi anche quello del dramma delle ragazzine o bambine addirittura che vanno in sposa in Yemen. È uno stereotipo o è la realtà? In parte è uno stereotipo, ma in parte direi è una realtà, soprattutto adesso in guerra. Noi in Yemen abbiamo avuto questo fenomeno e il fenomeno purtroppo con la guerra è cresciuto, quindi non possiamo assolutamente parlare, non possiamo minimizzarlo assolutamente, però il problema è che in genere noi diamo molto risalto a notizie eclatanti come potrebbe essere la bambina di 8 anni data in sposa, eccetera, che è veramente una rarità assoluta. Quello che è invece decisamente endemico è il fatto che noi ci troviamo di fronte a famiglie, a maggior ragione con la guerra, che quando le figlie raggiungono l'età del primo menarca, dopo circa 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi, soprattutto perché non ci sono soldi in casa, le promettono in spose e poi le danno in spose, e questo è il vero aspetto che va considerato, e che purtroppo, se prima della guerra si erano fatti dei passi in avanti, c'era anche una bozza nella nuova Costituzione che prevedeva il divieto di sposare i figli oltre una certa età, cioè prima di una certa età, questa bozza non è mai passata alla Costituzione, perché la Costituzione non è mai stata scritta o riscritta, quindi ci troviamo nuovamente punto da capo, se non peggio, rispetto alle tradizioni precedenti al 2011. E poi ricordo anche che molte le cosiddette spose bambine che io ho conosciuto sono delle ragazze orfane che venivano cedute ad altre famiglie, in queste famiglie venivano utilizzate fino appunto all'età di maturazione sessuale come delle serve in casa, e poi venivano cedute ovviamente in cambio di una dote, peraltro voglio ricordarlo, che si gira intorno ai 1.000-1.200 dollari, che per noi è un'inezia, però per molte famiglie significa mangiare e vivere e affittare la casa con 20 persone dentro per un anno e mezzo circa. Quindi oggi abbiamo molte famiglie che purtroppo fanno questa scelta. E lei ha indagato molto anche sul traffico di bambini e ne ha scritto in questo libro. Ma di cosa si tratta? Sì, il traffico di bambini, ecco, certamente possiamo dire che lì dove c'è la povertà e le guerre, i bambini, maschi o femmine, insomma, importa relativamente, ma forse certamente più le femmine subiscono l'indicibile. Il traffico di bambini è una realtà che in queste aree è decisamente presente, precedente anche alla guerra, e si basa sul fatto sostanzialmente che se una ragazza alla maturazione sessuale è pronta per essere sposata, tra virgolette, invece un bambino è sempre buono per farlo lavorare, quindi per sfruttarlo da questo punto di vista, perché non ci sono le scuole, perché non c'è l'educazione, non esiste insomma anche una cultura che porti le famiglie a immaginare che l'educazione è un investimento. E allora fino al 2014 il confine tra Arabia Saudita e Yemen era interessato da un traffico di esseri umani piuttosto imponente, lavoratori che andavano in Arabia Saudita legalmente e poi tornavano rispediti indietro perché appunto... Lavoratori bambini, chiaramente. E anche lavoratori bambini che poi di fatto erano degli spacciatori, cioè venivano trafficati per poi spacciare droga in Arabia Saudita, e poi, poiché i bambini non possono essere messi in carcere, ma vengono messi in carcere per 24 ore e poi rispediti indietro sul confine. Questo traffico è durato parecchio tempo, si è interrotto con la chiusura di questi confini per via della guerra, ma è ripreso su altre vie, su altre rotte. Proprio recentemente ho indagato su questo tema per un magazine italiano, e noi oggi sappiamo che nel porto di Mukalla, che è un porto al sud dello Yemen, è certificato un traffico di minori che poi finiscono in Kuwait per altre finalità, probabilmente finalità di sfruttamento sessuale e non finalità in questo caso di lavoro illegale. In questo libro si parla di molte altre cose, come anche dei droni, sarebbe interessante, ma lascio ai lettori insomma un po' di cose da scoprire, della guerra che si fa attraverso i droni e di molte altre curiosità e interessanti aspetti dello Yemen. Ma torniamo a temi un po' più leggeri, perché a un certo punto nel libro si parla anche di salsa al pomodoro, no? Dice Galeotta fu la cucina, e qui c'è un incontro, perché la protagonista del libro, dietro la quale credo si celi proprio lei, Laura, inizia a mettersi all'opera ai fornelli, e qui c'è un incontro con una persona che diventerà speciale. Sì, è proprio così, io credo veramente che il cibo sia un elemento che rende possibile l'incontro fra culture diverse, fra persone diverse. Il cibo è nutrimento, e non è solo nutrimento fisico ma anche nutrimento dell'anima. E insomma, comunque forse i migliori incontri avvengono sempre a tavola, e di conseguenza, ecco, lì in cucina è proprio accaduta una preparazione di una pasta al pomodoro che poi è diventata l'inizio di una storia d'amore. Grazie a Laura Silvia Battaglia e anche a Paola Cannatella, che non abbiamo citato forse a sufficienza, ma che è colei che ha illustrato questo libro, La sposa yemenita, che trovate in libreria, pubblicato da Becco Giallo nella collana Cronaca Estera, come abbiamo detto. Grazie per essere stata con noi stasera. Grazie a voi. Grazie anche a Carmelo Lauricella in regia, a tutti voi per l'ascolto. Vi invito a seguirci anche sabato prossimo, e poi sui social, sulla nostra pagina Facebook, Indovina chi viene a cena. Io vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 21, sulle frequenze di Radio 24 e Sole 24 Ore. Buona serata da Valentina Furlanetto. Ciao. You've got to give a little. That's the glory of love.